Siamo in missione per conto di Dio. Quattro mattino di Luca Telese. Reach out, touch faith. Tutto quello che si può fare secondo le regole democratiche. E quindi anche l'ostruzionismo. Tutto quello che si può fare secondo le regole democratiche. E quindi anche l'ostruzionismo. E tutto quello che si può fare secondo le regole, se vuole andiamo avanti fino a domani. No, ok. Sei peggio di una bella donna, Telese. Io non capisco chi ti fa fare questo lavoro a te, che ormai sei ricco sfondato. Sui conti della segreteria federale della, quindi c'erano 30.000 euro. Il partito c'erano 30.000 euro, quindi se cercano 48 milioni probabilmente devono andare in Montepaschi, in Banca Etruria, in Veneto Banca o da quelle piste lì a sequestrarli, perché da noi non li trovano. Oggi è in corso la vendemmia con qualche problema. Cioè? La vendemmiatrice meccanica non riesce a staccare i grappoli e quindi bisognerà vendemmiare a mano. La vita è come se ci fosse un altrove in cui tutto è permesso, in cui non ci sono regole, in cui non c'è rispetto per l'altro, ed è una violenza e un'aggressività quella che circola, che cominciano a farmi paura. Ho temuto che stesse arrivando una battuta, ti svegli tardi o tardelli, ma per fortuna l'hai evitata. Sono solidale a tutti quelli della redazione di Radio 24 che stanno qui e ridono, che sono lì, sono lì dalle 4 e vengono sfruttati con orari terribili. Facciamo un avvertimento sindacale: è immorale alzarsi a quest'ora. Reach out and touch faith. Popolo dei Giasvegli, buongiorno, 24 mattino e siamo qui in una giornata densa di avvenimenti ancora una volta, con Ryanair che, come sapete, non vola, cancella dei voli, con il giallo su Emanuele Orlandi, una storia infinita, concorsi, ricorsi, colpi di scena, l'ultimo proprio in queste ore, e insomma molto da discutere. E voi forse siete incolonnati del traffico, forse vi state infilando le pantofole, forse siete davanti al caffè turbati dal risveglio, e noi siamo qui con Fabio Canino. Buongiorno. Buongiorno, proprio per rovinare la giornata a chi ci sta ascoltando, dice: non basta svegliarsi presto, c'è anche Canino adesso. È vero? Ma tu sei un veterano della radio della mattina, giusto? Non della mattina a quest'ora, però. Ah, ecco, l'hai fatto solo per noi. Allora, esatto. Conduttore televisivo, radiofonico, intellettuale controcorrente, giornalista. Sei giornalista, no, da quanto sono burocratico? Per carità, ah, no. Per carità, neanche ti avessi detto. Allora, con Fabio Canino entreremo dentro le notizie della giornata. Qual è la cosa che ti ha più colpito, diciamo, fra i temi di cui si discute in queste ore? Guarda, non so se è vera, magari è stata smentita, che Saviano si candida. Sì, è vera, è vera, è vera. Ti piace? Lo voti? No, assolutamente no. Come no? No, io lo stimo molto come scrittore, ma secondo me per fare il Presidente del Consiglio ci vogliono altre doti, altre competenze. E non è che il fare il Presidente del Consiglio pop voglia dire essere necessariamente bravi. Poi magari è bravissimo, però così sulla carta preferisco altri nomi. Subito controcorrente Fabio Canino, 349-238-6666, se volete dirci anche voi come la pensate, 800-24-0024 quando apriremo il filo delle telefonate. Ma iniziamo come ogni giorno dal fritto misto, c'è molta roba al fuoco. Paolo Gentiloni è un tipo che può scrivere Matteo stai sereno? No, non lo può scrivere, non lo può scrivere perché non ha il carattere da scriverlo. Ma non lo scrive o non lo pensa? Non lo scrive. Non lo scrive. Era Romano Prodi intervistato da Marco da Milano. Sono scattate scintille ieri per questo rituale intervista a tre con un comico e un politico di lungo corso come Prodi. No, l'importante è che ci siano delle persone che si mettono a disposizione per il progetto del movimento, insomma, che siano una o che siano di più. Io non posso influenzare il voto, sapete che non facciamo endorsement. Era lei, la Lombardi, che parlava delle famose primarie, quelle che hanno acceso la curiosità di Canino. Ci sono i sette nani, poi vedremo i loro profili, così vengono definiti dai giornali, i candidati, i loro curricula sono molto improbabili. E allora è accaduto quello che ha detto Fabio. Saviano ha detto: scendo in campo io. Il centrodestra è davanti alle altre due forze, la sinistra e il partito ribellista dei 5 Stelle, che ieri ha tra l'altro indicato come leader un signore che io considero una bella meteorina della politica, dal bel viso in televisione, ma che porta agli italiani come bagaglio per fidarsi di lui la nullità assoluta di quello che ha fatto. E l'avreste mai detto che Berlusconi avrebbe usato come un insulto una declinazione di un mestiere televisivo? No, però in Italia tutto può accadere. Sentite adesso cosa succede nella casa del Grande Fratello. Amore, non puoi restare in continuazione, Serena, ti giuro, è impossibile. È impossibile, ma no, guarda, è una settimana che non dormo, io poi ho il sonno molto leggero. Figurati se io voglio mandarti via, ma io ti amo, tu lo sai, il bene che ti mi voglio. Mi ami ma mi odia. Ma non ti posso odiare, non ti, ma io lo faccio anche per... Allora tu stasera dormi e ti dico: Serena, Serena, perché se io non dormo, ragazzi, io vado in crisi. Va bene per tutto, che ti importa, vai. È vero. Era Cristiano Malgioglio nella casa del Grande Fratello. Sono contento di non vederlo, ma quando arrivano queste schegge sono memorabili. E una notizia seria, drammatica: un altro stupro a Roma. La vedevamo spesso, veniva a prendere il caffè, l'acqua, chiedeva di andare in bagno, una persona molto tranquilla, insomma, mai dato problemi. La vedevamo sempre qua, veniva, chiedeva di andare in bagno, poi se ne andava. Si intratteneva con un altro senza tetto, sempre tedesco, li ho visti qualche volta scambiarsi, parlare tra di loro, ma oltre, cioè, più di così no, non ne sappiamo, insomma. E allora rieccoci con Fabio Canino. Fabio, è uno dei tuoi sogni segreti partecipare al Grande Fratello VIP e avere dialoghi sul sonno con Malgioglio? Completamente pazzo, completamente. Guarda, veramente dovessi morire di fame, proprio non ci andrei, ma per un discorso proprio... Addirittura morire di fame. Sì, non è che ti ho detto di andare in carcere. No, lo so, no, ma per carità, rispetto per chi ci va, perché poi ognuno nella vita fa come vuole, ma il pensiero di avere una telecamera 24 ore su 24, che ti sente dire per forza ogni tanto anche delle cazzate, perché anche la persona più intelligente di questo mondo nelle 24 ore la dice una cazzata. Ora non è il caso di Malgioglio che le dice anche più di una, ma io lo trovo imbarazzante, ecco, veramente imbarazzante. Hai, siccome tu sei politicamente scorretto, diciamo, hai il sarcasmo che solo un omosessuale può avere per un altro omosessuale, è vero? Beh, lui poi, sai, a me fa molto ridere Malgioglio, nel senso che quando lo senti parlare tu dici: ma com'è possibile che questo abbia scritto delle canzoni meravigliose come quelle che ha scritto? Se sembra, a volte sembra analfabeta. E poi invece in realtà, vedi, si scopre che è un grande poeta della canzone italiana. Detto questo, siamo molto, molto diversi tra i diversi. Certo, ovvio. Però c'è anche, come dire, lui è anche un po' la quintessenza, no? Di una certa posa caricaturale, i toni, la voce, no? Sì, lo usano apposta. Amore. Ma perché? Sì, tutto questo tesoro, amore, ti amo, adoro. Che è distante. Com'è nata questa lingua, la lingua, diciamo, de caricaturale dei diversi, che non è quella. Molti pensano e parlino solo così gli omosessuali ormai. Sì, vabbè, lasciamoglielo credere. No, credo che un po' ci faccia anche, un po' lo faccia apposta, perché è un po' il gay di regime, lui è sempre stato il gay di regime, che ci sia la destra, che ci sia la sinistra, lui rappresenta se stesso e lo dice sempre, questo glielo devo dire, nel senso che lui non ha mai detto io rappresento una comunità, lui rappresenta se stesso, meno male, a volte dicendo anche delle bestialità che però so, tipo lui era contrario alle unioni civili, eccetera eccetera, questo secondo me lo fa più per avere qualche articolo sui giornali, però poi so che all'interno di questo Grande Fratello di notte, mai di giorno, invece ha fatto tutto un discorso su quanto è bello invece l'unione civile, quanto è bello quelli che fanno coming out, che escono fuori, ha un po' rimesso a posto quello che aveva detto sui giornali, o perlomeno che gli era stato attribuito. Attribuito, bravo. Allora, invece, quanto ti preoccupa da 1 a 10 il caos di Ryanair? Avevi dei voli, dei biglietti, sai che rimborsano senza le tasse aeroportuali? Questo, ho capito, leggendo i giornali, era una bella fregatura. Sì, è una grande fregatura, effettivamente, ma credo verrà messa a posto, non verrà lasciata così. Guarda, Ryanair ha un grande merito di arrivare in orario, perché è l'unica compagnia aerea che arriva sempre in orario, perché sennò devono pagare lo slot negli aeroporti e quindi verrebbe a costare alla compagnia tantissimo. Difatti il personale di bordo lavora, questi ragazzi lavorano veramente come dei matti, guadagnando pochissimo, ma fanno di tutto su quell'aereo, si vendono le sigarette elettroniche alle lotterie, al mangiare, e in un volo non stanno fermi un secondo. Detto questo, ecco, al di là dell'orario, della puntualità, un aereo, un Ryanair non riesce a dormire nemmeno 5 secondi, perché ogni 2 secondi c'è un annuncio di vendita di qualcosa. Allora, ti leggo gli sfidanti di Di Maio. Allora, c'è un fruttariano, un esperto di trapianti dei capelli, chissà perché. Elena Fattori, che è una senatrice Novax, 2 giorni fa aveva scritto: che bello Luigi, sei candidato, sulla sua pagina Facebook. E poi c'è una certa Nadia Piseddu, 26enne di Vignola, Modena, che ha la voce esperienze politiche, ha scritto Nadia, perché sostiene di essere il cuore, la prima fondatrice del movimento. Tu chi voteresti così? Democrazia di nessuno. Assolutamente. A parte mi fai il ritorno di Sossaviano. No, nel senso, a parte magari sono persone meravigliose, io ora sto parlando così alle 6:30 del mattino, ma voglio dire, non è che la politica deve essere fatta dal mio vicino di casa, dal mio portiere. Io voglio persone competenti. Sei controcorrente. Sì, le voglio anche pagare bene. Io non sono di quelli che dice no, sono tutti ladri. No, quelli che sono ladri vanno in galera. Quelli che fanno il loro lavoro devono essere pagati bene, perché rappresentano me, rappresentano una comunità molto grande come l'Italia. Perché io voglio persone competenti. Non è perché uno la mattina si sveglia, decide di entrare in politica e prende 6 voti, perché poi queste elezioni prendono 6-7 voti, non mi sta bene. Sottoscrivo al 100%, ci fermiamo per le strade e torniamo fra poco. Mattino. I già svegli. Buongiorno, ma non so neanche dove sono. Io non mi alzavo da quest'ora neanche l'ultima volta quando ho fatto la visita per il militare. Non avevo neanche 17 anni, cioè avevo, capisci? Io mi alzo tutte le mattine dal 1972 alle 5:45. Sono sempre sveglio a quest'ora perché non vado ancora a dormire, mi addormento tra le 7 e le 8. Vado avanti tutta la notte finché non arriva l'alba, appena arriva l'alba mi nascondo un attimo e mi risveglio alle 11. Sono Pino da Prato, sono già sveglio perché mi sono svegliato con questo pensiero. Ho pensato ai finanzieri corrotti, ho pensato ai poliziotti della stradale, poliziotti di Ischia, di Napoli, eccetera, eccetera. Te lo rifaccio, Teresa, rifaccio, perché era troppo vago quello. Allora, io mi alzo molto presto, anch'io, sono una pensionata e siccome dedico tutto il mio tempo al mio cagnolino, allora io mi alzo presto perché così dopo faccio fare il giretto al mio cagnolino. Poi torno, faccio colazione e vado a dormire un'altra volta. La signora del cagnolino, quanto le vogliamo bene, il popolo dei già svegli siamo noi, siete voi, ricordatevi la segreteria telefonica 02465244492 per i vostri messaggi. Fabio, tu appartieni alla categoria Sgarbi che alle 6:30 è sveglio perché sta per andare a dormire, categoria della signora sveglia alle 6 dal 1972? A nessuna delle due categorie, io appartengo alla categoria che ormai, diciamo, mi do delle regole, tipo il personal trainer in palestra, per cui mi sveglio alla stessa ora per andare in palestra, che è un po' per avere della disciplina, mi do della disciplina così, però mi sveglio verso 9:30, una roba del genere. Umano, normale. Sì. Entriamo nella politica, ti sottopongo una battuta cattiva di un nostro ascoltatore, ma la mattina sei anche un po' cattivi. Belle scelte musicali, poi scritto un Silvio, mi sa che ha sbagliato dentiera. Ti piace questo ritorno di Berlusconi dimagrito? Lo invidi? Vorresti andare anche tu nel centro di Chenot? Ci sono stato, guarda. Ah, no, colpo di scena, ma tu non hai pancia, sei longiline. No, pancia, non ci vediamo da una vita, caro Luca. Io mangio per dimenticare, cioè, chi beve per dimenticare, io mangio. Bellissimo. No, non mi piace il... Com'è questo centro? Quelle cose tipo Fantozzi che ti legano, ti fanno docce gelate e mangi due sedani? No, mangi allora, un posto bellissimo, però tipo mangi, non so, una spic di cocomero, e devi essere contento e basta. Poi ti aiutano con delle tisane, delle robe, però cioè no, basta? No. Cioè quello è il pasto? Sì, no, per dire, pochissimo, sì. Mangi la metà delle calorie di cui avresti bisogno. Cioè non c'hai mai un primo, un secondo? No, sì, ma caffè ammazza caffè, no. Non c'è, ma sono fatti e si paga per questo. Tantissimo, tantissimo. Quanto hai speso, se puoi dirlo, per una settimana? No, io ero ospite. Beh. Figurati se vado a pagare, però so che si arriva a pagare anche tipo 1000 euro al giorno, eh? per la fettina morale. Di cocomero, meraviglioso. No, perché no, non c'è solo quello, c'è tutta una dei medici che ti seguono, insomma c'è una cosa, però comunque tantissimo. Bene, abbiamo detta una sulla destra, adesso ti faccio sentire, se non l'hai ancora ascoltato, il nuovo Crozza che clona Pisapia. Buonasera Pisapia, Bersani Buonasera. Ha detto che sarà lei il leader di tutta la sinistra. Sì, adesso dovrebbe essere così, vediamo che cosa si può fare. Cosa... Perché in questo caso dovrebbe tenere insieme D'Alema che odia Renzi, Bersani che odia Renzi, Civati che odia Renzi. Minchia. Tutta gente che ha votato no al referendum, mentre lei ha votato sì, giusto? Ah, minchia, è vero. Sì. Ma lei dopo le elezioni dovrà allearsi con Renzi? Minchia, sì. Quindi lei vuole mettere insieme tutti quelli che odiano Renzi per poi allearsi con Renzi? Oh, minchia. E come si chiamerà questa formazione di sinistra? Non lo so, a sto punto minchia. Perfido. Quando Crozza mette uno nel mirino è finita, è proprio... Beh, però anche vuol dire che è diventato popolare. Sì, è vero. La mia prima era il sindaco di Milano, che io stimo molto, però era il sindaco di Milano e basta. Adesso è il possibile candidato contro Renzi, perché è chiaro, soprattutto in Sicilia, faranno di tutto per perdere le elezioni. I DS, il CDS, l'Atto Solidiano, il PD sta facendo di tutto per perdere le elezioni, in modo che poi, perse le elezioni, mandano a casa Renzi e mettono lui a comandare. Però insomma, perdere le elezioni per sperare poi di vincere quelle nazionali, che lo pensano solo loro, perché è chiaro che se perdono poi per altri 20 anni, altro che Berlusconi. Ma l'imitazione è una staffilata, un calcio nelle palle o un certificato di notorietà? Io ancora non l'ho capito. Lo sai che Ingroia disse ho perso le elezioni perché Crozza mi ha demolito, poi c'è il caso il governatore della Campania che è diventato più simile all'imitazione Crozza che a se stesso. È vero, allora, De Luca. Ingroia ha ragione, sono d'accordo anch'io, ma perché Ingroia ancora non era popolare. Cioè lo ha reso popolare senza essere popolare, quindi nessuno sapeva chi fosse. E quindi è stato solo quello il messaggio, esatto, e ti distrugge. Mentre è una piano piano lo stanno facendo diventare famoso, e De Luca è una macchietta. Anche De Luca è diventato popolare. Sì, ma vedi, a volte rischiano, questo è il rischio di quando viene fatta l'imitazione, di renderli credibili. Cioè Razzi, il senatore Razzi. Che io Razzi non è credibile con l'imitazione. Ma la gente lo ritiene simpatico, per cui ci sarà anche qualche pazzo che lo potrebbe anche rivotare. Ma sai che è partito, l'abbiamo intervistato e stava partendo per una missione di pace in Corea, per salvare il mondo. Appunto, capisci in che mani siamo, no? Cioè, io veramente, a volte, quando sento dire che lui va, a parte io non credo che quell'altro pazzo là con quel taglio di capelli, chi è? Il dittatore nordcoreano, non sappia nemmeno chi è Razzi. Arriveranno al portiere del palazzo dove vive la moglie del dittatore, ma non credo lo facciano entrare. Poi con che lingua parlano? Perché se lui va là e chiede un interprete italiano, l'interprete italiano poi verrà fucilato perché non capisce quello che dice Razzi. Allora, senti il vero De Luca, credo, perché a questo punto non si sa mai, che parla di Di Maio. Uno, due, no. Tre, Di Maio. Oddio, l'ho detto. Ma di che vive questo supposto Di Maio? Di cosa vuole che viva? Di politica a politicante. Sì, va bene. Non aveva reddito. È giovane. E ora grazie ai 5 Stelle, alla Marcegaglia come Colf che gli stira le camicie. No, non esageri, io no. Io rispetto e li stimo, queste mezze pippe. Ecco, vede che poi però, no. Perché c'è solo... Era quello finto, vedi, ormai la confusione regna anche fra di noi, però divertente. Molto, molto. Ecco, diciamo che è il personaggio di Crozza che mi piace di più, perché è anche più simile alla realtà e secondo me fa dire a De Luca quello che pensa Crozza, veramente. Bene, grazie a Fabio Canino. Qual è il prossimo prodotto del tuo talento? Dove ti vediamo, ti troviamo prossimamente? Sempre Radio 2, sempre Radio 2 Miracolo Italiano. Ah, la concorrenza! Certo, l'ho detto apposta. Ciao, grazie, a presto. Ciao, grazie a te, buona giornata. E allora stiamo per entrare in una giornata molto densa e ovviamente c'è anche questo, c'è anche l'invettiva di De Luca sul futuro di Di Maio, ma attenzione perché oggi è un giorno importante, siccome non ha concorrenti che possano sconfiggerlo, questo vuol dire che l'investitura di Di Maio è esattamente la sua candidatura. Allora ci fermiamo, torniamo, GR Strada in diretta e torniamo fra poco.